Oh, Dona, senti, io parto, devo partire perché vado giù a casa, però non volevo lasciare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici senza la puntata prenatalizia di Likewise, la numero 6, quindi non so, magari proviamo a inventarci qualcosa. God at his finest, wonder why after mom primes. Never underestimate your highness. Strip them melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better big happy love for the betcha I chill. Flow, oh my gosh. Where my go? How the world is, nah, they don't know me. They don't know. They can't hold me. They box, they box, they talk. I know they can't show. Please believe me. They deceive me. They flex, they flex, they flex. I know they can't see me. A questo momento di partenze ed arrivi, anch'io non ci sono fisicamente a Roma per presentare in diretta la nostra puntata di Likewise numero 6, però abbiamo preparato una bellissima playlist anche questa settimana con grande cura e con grande amore. E, salutiamo chi ci segue in streaming da qualsiasi luogo, anche dai luoghi dove si è rinchiusi perché privati e private della libertà. Su ondarossa.info, salutiamo chi ci segue in FM agli 87, sulle 87,9 nella zona di Roma e invitiamo le ascoltatrici a collaborare a questa playlist che potrebbe diventare, se ci riusciamo, un podcast collaborativo. Mandateci dei vocali, lo potete fare con qualsiasi applicazione di messaggistica, ma anche allegando il vostro vocale a una mail. Mandata likewise chiocciolaondarossa.info e commentate voi i brani, commentate voi le autrici, raccontateci se le conoscevate già, demolite le loro canzoni quando non vi piacciono, esaltate quando vi esaltatele o raccontateci che effetto vi hanno fatto quando vi piacciono. Insomma, se vi va, collaborate e mandateci le vostre presentazioni questa settimana e magari riusciremo a fare insieme a montare insieme un podcast molto particolare della puntata di Likewise numero 6, che comincia ora. Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our

vida al polvo cual barrendera. Cadencia de mi prosa, prosa callejera. Siente el gorgoteo de tu saliva obrera, el vapor que bulle de tu cadera. Y la verde me desordena, obscena. Mi lengua pedalea fuera de la frontera. Tendrás apellido y plata, yo tengo los ojos color a marihuana. En ello te vuela, te pierde, te cega. Ay, dime tú por qué ya no lo riega. Que mis arterias se tapan con tantas excusas baratas. Yo no quiero tu santo sudario. Te evado como va de un secundario. Me embriago de rabia con una botella. Tu amor carcelario se va a la juguera. Tu alma vara tu traición, tu ambición. Tu alma vara tu traición. Todas las balas van a volver, todas las balas van a volver, todas las balas van a volver. El piso tú lo vas a morder. Ya, se mofan del pobre, de el periférico, el sin un cofre. Nadie le llena sobra, aquí no hay wiki doble, acá hay sobremesa. Acá lloramos weed, eyaculamos cerveza. No hay presa de tu sistema patronal, don feudal. Acá no hay toga ni birrete. Si tú quieres ganar, pues salte torniquete, filete. Pero de fibra vegetal, sin puñal, sin sangre como carnal. Un manantial de limonada y anís. Que beba las que sepan dónde está el clítoris sin matiz. Entregas o no a la lucha, ya basta de promesas truchas. Con todo si no pa' qué, te gritan desde la calle. Tu alma vara tu traición, tu ambición. Tu alma vara tu traición, tu ambición. Todas las balas van a volver, todas las balas van a volver. Todas las balas van a volver, el piso tú lo vas a morder. Like a girl. of a glade, above a lace barricade, rhododendron. Oh, I can't look back. I lost it all on this one-way track. The time of that dinosaur.

days from now I'd be walking out, missing the point all along, and no one would know where to point me to. Baby blue, if you knew all the thoughts in my head, you would lose all your own. Well, you would just lose nothing. Sticks to this machine calling, quitting, elated, and I can't stop it. But I know my head, use my hands just to keep you in bed, hoping the warmth was enough, keeping the gears from the rust. I can't take much more, my Kentucky is weaker than yours, tailored with seams so they bust, breaking the ties between us. Nothing sticks to this machine calling, quitting, and I can't stop it. No, I can't stop expensive. No, you can't fuck with me. No, not me. Not likely. Not sorry. Now you shema. Mi ama tena tena. Na rudi tena na tena. Over and over again. Na niki shema. Anything under the moon. I swear kuna kitu stadu. To show you ni nani mtu. Nilikuwa nina dream, nita sing one day. Nijaze study na wase, sasa venye nili dream. Nina live party, nina live party. Naka life ni movie, ha. Yes, who's starring? Yes, nani starring? Apa ni marriage? Nikubeast on this beat. Nikubeast on this beat. Navyo shema, mi ama tena ta tena. Narudi tena na tena. Over and over again. Nani kishema. Anything under the moon. I swear kuna kitu stadu. Show you ni nani mtu. Nilikuwa nikiwish nita hit one day. So I hit party. Sai gigs imeka. Sai stress ni kuplan. Yode isha kam. Real life kama movie, ha. Yes, who's starring? Yes, nani starring? Flavor, I'm choosy. Ongeza ujuzi. Stack you puzi. Wanavyo ni tarajia. Wanavyo ni angalia. Wanavyo ni kubalia. Wanavyo ti. Nina wapa fever. African fever. Sema, mi ama tena ta tena. Narudi tena na tena. Over and over again. Nani kisema. Anything under the moon. I swear kuna kitu stadu. To show you ni nani mtu. Navyo sema. Mi ama tena ta tena. Narudi tena na tena. Over and over. Kuna kitu stadu. To show you ni nani mtu. Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine. Finisce così quindi questa puntata speciale di Lakewise numero 6 di martedì 21 dicembre. Abbiamo chiuso con Canzone arrabbiata e questo omaggio a Linea Wertmüller. Come diceva Dona in apertura, invitiamo tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a scriverci, mandarci insomma messaggi vocali, presentare le artiste, le canzoni che vi sono piaciute di più, i perché, i per come, che magari montiamo insieme queste voci con le nostre per il podcast di questa specialissima puntata che non è stata in presenza. Ci piaceva chiudere con Canzone arrabbiata e ricordare Linea Wertmüller, e un po' perché è anche nelle corde di Lakewise come spirito. Ricordiamo a tutte e a tutti che il 31 dicembre c'è il presidio dalle 10:30 a Re Bibbia, via Maglietti, angolo via Longo, e auguriamo a tutti quanti di trascorrere questi giorni nel miglior modo possibile. Noi ci risentiremo live probabilmente intorno alla metà di gennaio. Fino allora, buon ascolto con Radio Onda Rossa. Lakewise. God at his finest, wonder why after my prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit at the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Bit a big apple for the betcha I chill. Flow, oh my gosh, where my go? Oh my gosh, if I'm not oh my gosh, guess you never know what you got till it's. Give them the feet, let them grow the feet. Flying by the Africa, get the kids to breathe. Show them how the other half, how the world is. Show them how the other half, how the world is. Nah, they don't know me. They can't hold me. They box, they box, they talk. I know they can't show. Please believe me. They deceive me. They flex, they flex, they flex. I know they can't see me.